Buongiorno a tutti, il programma prevede di parlare di ritrosie, del braccio grasso della legge, nonché di una serata noiosa.